l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come ogni settimana per raccontare l'Europa delle sue mille sfumature, quella che è l'attualità politica ed economica viene narrata giorno per giorno qui a Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, anche altre storie. Oggi avremo il piacere di ospitare Fabiola Gianotti, la neo direttrice del CERN di Ginevra. Con lei parleremo di Europa, parleremo di innovazione, parleremo di futuro e non solo. Ci sarà anche Pif per commentare insieme il premio europeo che il suo film ha visto e poi tante altre storie. Insomma, questo è il nostro programma. Vi ricordo un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Euronetplus.eu è il portale che vi consiglio di visitare perché è una bella piazza, un bel incrocio di notizie, di reportage, di storie, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. E poi ci sono le nostre bacheche virtuali, Twitter e Facebook, il mio account personale, chiocciola Federico Taddia. Si parte, si comincia ovviamente dal Natale. Lo sappiamo che c'è l'Europa delle leggi, l'Europa dei regolamenti, l'Europa della troica, la sappiamo, la conosciamo, la raccontiamo, non la nascondiamo. Poi c'è anche l'Europa della cultura che per noi è comunque colonna portante di questo percorso comune, quindi ci piace alimentare questa direzione raccontando le esperienze quotidiane di chi tenta di creare una nuova cultura europea. Piccoli progetti, magari che coinvolgono proprio i più piccoli, come quello che raccontiamo oggi. Diamo il benvenuto a Claudia Turzo, insegnante responsabile del servizio educativo Scuola dell'Infanzia, le Carbonelle Colorate di Cislago. Siamo in provincia di Varese e credo che in questo momento sia proprio in gita scolastica. Ciao Claudia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. In effetti sono in gita scolastica, sì, siamo qui in Trentino. Ecco. Quindi insomma vi troviamo sul campo come questo. Sì, adesso si dice tanto, insomma, quello dell'insegnante è quasi un lavoro H24, vero? Tra compiti, non compiti, gite, però sì, insomma. È anche tanto volontariato facciamo, quindi non finisce mai, giustamente. Claudia, ti abbiamo disturbato in gita per raccontare questo bel progetto che ha visto protagonista l'antenna Europe Direct della regione Lombardia e non solo, però vi ha coinvolto in questo progetto in risposta di un'iniziativa lanciata dal centro Europe Direct di Langholen, siamo in Galles, un progetto di condivisione del Natale. Cosa avete combinato? Sì, in effetti noi abbiamo avuto questa meravigliosa opportunità grazie appunto, come dicevi tu, ad antenna Europe Direct della Lombardia, in particolare la sede di Milano, di essere messi in contatto con 15 paesi dell'Unione Europea, corrispondendo con altrettante 30 scuole tra infanzia e primaria dell'Unione Europea. Il progetto è estremamente interessante perché consente ad ogni scuola di realizzare un albero di Natale composto sostanzialmente dalle decorazioni natalizie che provengono da tutte le scolaresche. Quindi c'è poi, diciamo, un'unione ideale di un albero che ha la medesima composizione e lo stesso, il medesimo, in tutte le 30 scuole che hanno aderito a questo progetto. Quindi praticamente vi siete scambiati le decorazioni natalizie, questo era il pretesto per mettere in contatto realtà diverse, culture diverse, scuole diverse, far interagire anche, credo, in modo digitale i bambini tra loro in qualche maniera? Sì, assolutamente. Infatti non dimentichiamo che anche noi, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, possiamo già iniziare a lavorare su quelle che sono le competenze chiave, no, di cittadinanza europea, e quindi un'occasione appunto data col progetto Christmas Exchange proprio mettere in relazione le diverse culture, le diverse tradizioni, le diverse realtà scolastiche. E in questo modo quindi si crea un clima di festa per quasi tutto il mese di dicembre, perché arrivano plichi, lettere, dei pacchetti, per cui i nostri bambini sono entusiasti, scartano, vedono, leggono, e poi c'è questa condivisione anche sostenuta dalla forma digitale che consente davvero un apprendimento, diciamo, un po' fuori dal comune e immediato. Qual è stata la reazione dei bambini? Sempre con entusiasmo, perché anzi quando arrivano il lunedì si fondono subito in segreteria a chiedere, no, alla mia collega se è arrivata apposta. E poi noi li organizziamo in piccoli gruppi, 10-12 bambini per volta, e cominciamo ad aprire le buste e a esporre quindi le decorazioni natalizie, ma nello stesso tempo anche a leggere i messaggi, tra l'altro contenuti che anche noi stessi abbiamo inviato, perché anche la nostra scuola quindi ha inviato a sua volta a queste 30 meravigliose realtà d'Europa le proprie decorazioni natalizie con le tradizioni legate quindi al nostro territorio, in particolare alla Lombardia. Certo, e europedirect.regione.lombardia.it è il sito ufficiale dell'antenna Direct della Europe Direct della Regione Lombardia. E grazie davvero Claudia per averci dato un assaggio del bel lavoro che avete sviluppato, e buona gita e buone feste. Grazie a te, buone feste a tutti. Ciao Claudia, ciao, ciao. E a proposito di Natale, vi ricordo che l'Altra Europa sarà in onda anche il 26 alle 9 di mattina, quindi Santo Stefano, faremo una puntata speciale, racconteremo il Natale delle tradizioni, racconteremo il Natale dei vari luoghi d'Europa, andremo a svegliare un po' di corrispondenti nel giro per l'Europa per raccontare così queste giornate di festa, come sempre, da tanti punti di vista diversi. Quindi vi aspetto il 26 alle 9 puntuali con questa puntata speciale dell'Altra Europa. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta. Europost-it. Roundtable Dialogue 2015, Kosovo, Serbia. Se avete tra i 26 e i 30 anni e volete capire meglio come il conflitto tra Kosovo e Serbia possa essere risolto, l'associazione Global Youth for Balkans organizza una simulazione diplomatica rivolta a studenti, ricercatori, diplomatici e politici. L'iniziativa intende contribuire così a una diplomazia più orientata alla pace per il futuro delle giovani generazioni nei due paesi. I lavori saranno organizzati in due momenti, il primo a Pristina, in Kosovo, dal 20 al 22 febbraio 2015. Il secondo in Serbia nel prossimo mese di aprile. L'iscrizione alla prima tornata deve essere formalizzata entro il 23 dicembre, quella alla seconda entro il 5 febbraio. Per tutte le informazioni visitate il sito ksroundtable.org. L'altra Europa. La mafia a Palermo ha sempre influenzato la vita di tutti e in particolar modo la mia. Non capisce come funziona. Gliel'ho spiegato di nuovo. Se sente caldo, deve ammaccare questo, neve. Vede, neve. Se invece sente freddo, ammacca sole. Ma qualche giorno dopo, Totorina capì come funziona un telecomando. Hanno dimostrato che lo Stato non è con noi! Ma la mafia può uccidere anche noi! Tranquillo! Ora siamo d'inverno, la mafia uccide solo d'estate. Ve l'abbiamo fatto ascoltare tutto, il trailer della mafia uccide solo d'estate, il film di Pier Francesco Di Liberto in arte PIF, film che abbiamo visto, film che ha ricevuto tantissimi premi, film rivoluzionario nel suo piccolo perché è riuscito a raccontare la mafia con leggerezza e con profondità. Film che è andato oltre i confini italiani, ha ricevuto questo premio la settimana scorsa, è stato premiato agli European Film Award come miglior commedia. E Pif è qua con noi. Ciao Pif, buon sabato, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno, ciao, come stai? Bene, sono, il mio ego è sempre più appagato, quindi sono ormai di un'arroganza insopportabile. È un ego internazionale ormai. Sì, ormai è perlomeno europeo. Tra l'altro, insomma, quando ho visto la notizia del premio, quante volte viene detta la parola Europa durante il film? L'hai mai contata? Perché è un tormentone, no? C'è questa Sicilia, l'Europa, la Sicilia. C'era la frase famosa di Salvo Lima che non faceva, durante le elezioni non faceva molti discorsi pubblici perché sapeva tanto che l'avrebbero votato, però c'era questa frase che era: la Sicilia ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno della Sicilia. Una frase che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Esatto, però ottima per riempirsi, esatto, riempirsi la bocca. E, non so, forse è inutile chiederti, insomma, se sei contento, se sei felice di questo premio, perché la risposta è ovvia. Quello che voglio sapere però la soddisfazione di essere arrivato in Europa con questo messaggio, cioè vuol dire che è un qualcosa non solo siciliano, non solo italiano. Sì, in realtà io veramente ero abbastanza convinto di non vincere, ero abbastanza certo, perché gli altri due film erano uno spagnolo che aveva avuto molto successo e poi l'altro pure fatto da tratto da un romanzo importante, quindi, e poi pure sì, mi chiedevo ma con chi... appunto, se non sei italiano cosa puoi capire questo film. In realtà poi il senso è in realtà questo film è una storia d'amore in piena guerra, quindi le dinamiche sono sempre le stesse, quindi poi magari la gente non avrà capito, sicuramente non conosceva i personaggi, magari molti non conoscevano Andreotti all'estero, almeno già un quindicenne di oggi fa fatica a sapere che è Andreotti italiano, figurati straniero, però ci sono delle dinamiche che sono universali, poi non era così scontato che di riuscire a ricrearle, però questo fatto che sia stato apprezzato mi è uno stimolo, mentre gli altri primi mi hanno sempre messo un'ansia pazzesca per il futuro, perché diciamo chissà cosa aspettano, si aspetteranno grandi cose dopo. Questo non so perché mi ha stimolato, ha abbattuto i confini nazionali per me. E poi avrei avuto anche un feedback di interviste di giornalisti stranieri. Quali sono state? Cioè, l'avevano capito il film? Quali sono state le domande che più ti hanno fatto? Ma un po' ti chiedono com'è la situazione oggi, ti chiedono se non è pericoloso, se non rischio io la vita dopo aver fatto questo film. Poi mi ha colpito una volta, avevo fatto vedere per il film alla stampa straniera estera in Italia, e parlavo quando c'erano due giornaliste tedesche e dicevo che la zona grigia, quei palermitani che non erano mafiosi ma non facevano neanche niente per sconfiggere la mafia, e aveva un certo distacco quando si parlava della lotta alla mafia, e loro si sono guardate e hanno detto: beh, effettivamente è lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto noi tedeschi con il nazismo, certo. Cioè, molti non erano nazisti ma non facevano nulla per, e credo che sia sì, siano delle dinamiche umane, semplicemente l'uomo davanti al male spesso reagisce in questo modo, che comunque non prendere posizione è sempre, cioè non prendi posizione contro la mafia, in qualche modo sei a favore della mafia. Certo, ricordiamo che un altro film italiano è stato premiato come miglior film d'animazione, sì, L'arte della felicità di Alessandro Rack, un altro piccolo capolavoro. Beh, quella, sì, ma quella è una cosa meravigliosa, perché pensare che comunque l'animazione è sempre come dire, un mondo molto difficile, soprattutto in Italia, il fatto che lui abbia vinto credo sia un segnale molto molto bello, forse più rispetto al mio premio. Mm-hmm. Pif, ma dalla Sicilia tu da giovane che rapporto avevi con l'Europa? La vivevi come una cosa lontanissima, una cosa vicina, un'entità astratta, qualcosa da conquistare? Ma io mi sono sempre... ma l'Europa, no, sai, essendo palermitano, cioè la Sicilia è veramente distante, poi quando ero ragazzino io prendere l'aereo era veramente un lusso, quindi non ci si spostava. Mi ricordo quando mi trasferì a Milano, comunque quando ho cominciato a conoscere i ragazzi di Milano mi colpiva il fatto che appunto essendo milanesi si spostavano in Germania o in Francia senza problemi, per noi era... E io l'ho sempre vista come un'opportunità per civilizzare, come dire, per rendere più civile questo paese. nel senso che quando siamo entrati nella Comunità Europea siamo stati costretti a prendere provvedimenti di leggi molto civili che noi non avremmo mai preso. Però sì, geograficamente è sempre stato lontanissimo, però l'ho sempre visto come un... poi al netto di tutte le cose economiche che insomma non ho mai considerato. Insomma, sicuramente il tuo film ti ha riavvicinato a questa Europa. Però è bello l'arte della civilizzazione tramite l'Europa, è una bella suggestione, in effetti. Però ci sono state molte cose ci sono state molte leggi che noi siamo stati costretti a fare perché facciamo parte dell'Europa, cioè quella è un'Europa che decisamente mi piace. Io sono sempre stato per le civiltà, le società nord europee. Io vivrei benissimo in quei posti là, a parte il freddo. Infatti La Mafia Uccide solo d'estate, Pif, grazie davvero per aver testimoniato ancora una volta il tuo lavoro, il tuo messaggio, che insomma in questo caso con questo film si fonda quella che è la tua arte, quella che è la tua professionalità, ma anche la tua persona, e credo che questo sia un ulteriore valore aggiunto. Buone feste, Pif, grazie. Grazie, ciao. Buon sabato, ciao. Nazywasie Wanda Gruz, to jest jedyna siostry prawna. Powinna ją siostra poznać, zanim złoży śluby. Nazywasz się Ida Lewenstein. Nie powiedziało ci przez tyle lat. Ancora cinema per parlare di Europa, per parlare di cultura. Quello che ascoltate, che state ascoltando, è il trailer del film Ida, che ha vinto l'European Film Award 2014, è in gara ancora come miglior film straniero agli Oscar, ma ha vinto anche il premio Lux, che è stato annunciato mercoledì scorso dal presidente Schulz, il premio per il cinema assegnato dal Parlamento Europeo, e di questo ne parliamo con l'onorevole Silvia Costa, a cui ancora una volta diamo il benvenuto qui all'Altra Europa. Ciao Silvia. Grazie, ciao, piacere di sentirvi. Ricordiamo Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Silvia, prima di parlare del premio Lux, come va l'umore? Perché ho letto qualche dichiarazione, eri un po' arrabbiata in questi giorni. Sono un po' preoccupata. Diciamo che ci sono delle grandi contraddizioni, perché in tutte le conferenze ormai è chiaro che senza le nuove competenze, investimento nel sistema di educazione di qualità e soprattutto investimento nella cultura, nella creatività, penso soltanto al tema appunto dell'audiovisivo, ma anche delle nuove dei nuovi mezzi su cui si può produrre e distribuire, e rafforzare anche le basi industriali delle industrie culturali europee, non si va da nessuna parte. Ma poi quando si vedono le priorità per il 2015 del programma Juncker, quella è la cosa che ho denunciato, la parola cultura, la parola educazione non ci sono, salvo il riferimento importante alla riforma del copyright e a, spero, qualche regolamentazione sul tema degli over the top, cioè dei grossi operatori di rete che devono rispettare regole anche fiscali, fra l'altro. Certo. È un po' poco, troppo poco. E torniamo a Ida invece, la storia di un'orfana cresciuta in un convento, prima di prendere i voti scopre di essere ebrea, e lì parte per un viaggio per scoprire qualcosa in più su se stessa, la sua famiglia, un film di Pavel Palinkowski. Perché Ida, e qual è oggi il valore del premio Lux? Io credo che Ida sia stato, lo dicevi prima, tra l'altro qualche giorno prima aveva vinto questo importantissimo European Awards a Riga, e poi ha evidentemente convinto e colpito anche molti le giurie che prima hanno fatto la selezione dei tre finalisti, che come sai appunto sono Ida e poi il film di Bistek, che è un giovane regista allo sloveno, la sua prima maturissima opera, che è Class Enemy, e la Céline Chammat, grande regista francese con Bande Fille, e sono direi che ha colpito molto per questo essere insieme un film di una straordinaria capacità di di introspezione anche nella psicologia femminile, di una storia drammatica con esiti anche molto particolari e originale come storia, come struttura del racconto, ma anche, come appunto dicevi tu, una storia anche un po' sull'Europa, che guarda se stessa, che guarda la sua recente storia dagli anni, diciamo, 60 in poi, e quindi anche tutta una possibilità di riconoscersi da parte, in senso generale, in senso ampio, non solo della Polonia, ma comunque certamente è un discorso molto, che io dico in qualche modo, è un altro modo di guardare anche, come dire, la riunificazione, quello che c'è stato dietro alla riunificazione europea. Certo, insomma il premio Lux, alla fine, esatto, esalta non solo la produzione europea, questo è importante ovviamente, però proprio il messaggio, proprio una narrazione nuova, una narrazione diversa dell'Europa. È molto interessante il fatto che il premio Lux in questi 8 anni, io dico che è un bambino perché ha 8 anni, ma che è diventato, è cresciuto molto in fretta, perché il premio Lux, intanto vorrei ricordare la novità di questo premio, due sono le novità più rispetto al panorama dei premi cinematografici. Il primo, che appunto è l'unico Parlamento, credo, al mondo che abbia istituito un premio che il cui ultimo voto fra i 3 finalisti al vincitore lo danno esattamente i parlamentari europei, quindi questo è anche un modo per coinvolgerli su un piano culturale, per dimostrare davvero che credono anche al valore del cinema sotto tanti aspetti, di linguaggio, di contenuti. Secondo, perché è un premio, sì, certamente, che riguarda la cinematografia europea, in particolare anche sollecita le coproduzioni e temi sensibili, interessanti dell'Europa, ma dall'altra è interessante anche perché il premio in sé è esso stesso una novità, e cioè consiste nella sottotitolazione nelle 24 lingue ufficiali europee dei 3 finalisti. Prima era solo del vincitore, adesso dei 3 finalisti. Questo ha consentito, faccio solo qualche numero, in questi ultimo anno, che oltre 50 città europee si sono organizzate da parte degli uffici del Parlamento europeo a livello nazionale, ma anche da molti noi parlamentari. A Roma, per esempio, l'ho presentato in 3 diversi cinema con altre associazioni importanti, ma soprattutto la partecipazione, e quindi è stato visto al di là diciamo, spesso anche come promozione della poi vendita o acquisto da parte dei distributori, quindi è un grande aiuto alla circolazione. Secondo, fa conoscere spesso, questo, non nel caso di Pavel Pavlovsky, che è già abbastanza conosciuto, ma nel caso anche di altri giovani autori, cinematografie anche minori, penso appunto in questo caso alla Slovenia, e Castellano invitato sta avendo un grande successo nelle sale. Ho saputo l'altro giorno dalla Shammà che Bande Fie finalmente verrà distribuita anche in Italia, questo ci fa molto piacere, e quindi si dimostra che il tema, che non ci deve essere conflitto negli aiuti che si danno al cinema europeo fra il sostegno anche alla creatività, alla diversità anche culturale e linguistica, e la possibilità di circolare attraverso l'aiuto alle sottotitolazioni. Tra l'altro questo strumento, come tu ricorderai benissimo, l'abbiamo inserito nelle nuove linee di Europa Creativa. Certo, insomma, quindi tanti stimoli. Grazie davvero Silvia. Grazie, complimenti per la vostra attenzione. Buone feste, buon 2015. Ciao, presto, ciao, ciao. L'altra Europa. Can't remember anything at all, but I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Riapriamo con Nick Cave, che dice che vuole andare a Ginevra per scoprire il bosone di Higgs in questa stralunata ballata. Con cui riapriamo l'altra Europa. Siamo sempre in diretta su Radio 24, l'Europa delle storie, l'Europa delle persone. Ci trovate su Facebook e su Twitter, il nostro account, lo conoscete, il mio personale, chiocciola Federico Taddia. E andiamoci a raccontare Ginevra, al CERN, andiamo lì dove prima ancora che si parlasse di Unione Europea le nazioni si sono messe insieme nel segno della pace e nel segno della scienza. Lì è nata l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, lì ci sono migliaia di giovani da tutta Europa che non solo lavorano, ma ci mettono impegno, ci mettono passione, sacrificano il loro tempo per una ricerca che per noi non addetti ai lavori non la capiamo. Poi sui giornali ogni tanto escono notizie eclatanti e cerchiamo di capire qualcosa, ma da là passa il futuro, un futuro che sarà anche un po' italiano grazie alla nuova neo direttrice del CERN di Ginevra. Per la prima volta è una donna, lo sapete bene, Fabiola Giannotti, che è qua con noi. Buongiorno Fabiola. Buongiorno a voi. Buongiorno. Fabiola Giannotti, convocata oggi qui all'Altra Europa perché è stata una delle protagoniste con un contributo video, se non erro, perché alla fine insomma, credo tu non sia potuta andare a Bruxelles, a questo Italian Innovation Day di cui ci ha parlato Riccardo Luna proprio settimana scorsa. Fabiola, parlare di futuro porta a parlare di innovazione, credo che parlare d'Italia sia anche parlare d'Europa, credo che per te i confini siano spariti da anni per il lavoro che fai, per l'ambiente che frequenti. Che cos'è per te l'Europa? No, l'Europa è il mio paese. Al CERN lavorano 10.000 scienziati di tutto il mondo, quindi non soltanto europei, anche se il contributo europeo è il più significativo, quasi 100 nazionalità diverse, e si lavora assieme, uniti e animati dalla passione per la conoscenza. E io penso che la conoscenza e l'arte siano dei valori che uniscano i popoli, perché hanno un linguaggio comune, perché trascendono i confini. Ecco, quindi per me l'Europa è il mio paese, nel senso che pur mantenendo chiaramente i miei legami forti con l'Italia, mi sento italiana, però in un certo senso mi sento anche molto europea, e penso che sia veramente importante sentirsi parte di uno stesso paese, di una stessa regione, lavorare insieme per costruire la pace, per costruire qualcosa di buono. Uh-huh. E all'Italian Innovation Day, raccontare il futuro dell'Italia in 90 minuti era tante testimonianze, tanti protagonisti del nostro futuro. Hai detto che hai grandi aspettative nei confronti di chi e di cosa? Ma ho grandi aspettative in generale, innanzitutto perché penso che le aspettative, le speranze per migliorare il mondo siano un po' il carburante che ci spinge ad andare avanti, quindi bisogna sempre avere aspettative, sogni, speranze, mai abbandonarli, perché altrimenti è la fine, non abbiamo più stimoli. Ma ho aspettative per tante cose, aspettative per il CERN, perché continuo a vivere ancora a lungo. Quest'anno ha celebrato il 60° anniversario, perché possiamo continuare a fare ricerca a grandissimo livello, perché possiamo continuare a sviluppare tecnologia e a quindi creare innovazione, perché possiamo continuare a essere un esempio concreto di pace. Ma ho aspettativa per un mondo migliore in generale, un mondo più sostenibile, un mondo in cui la società e il pianeta Terra vivano in simbiosi ideale, senza che la società distrugga il pianeta. Insomma, aspettative per fare sempre meglio e di più. Uno pensa al futuro, pensa all'innovazione, e subito pensa ai nuovi smartphone, pensa alla stampante 3D, pensa a cose pratiche, no? Che cambiano un po' la nostra quotidianità. Si pensa meno a quello che succede là, dove si fa ricerca pura. È un problema anche di comunicazione, è un problema di divulgazione il far capire che è quello il punto di partenza, è lì l'origine di tutto? Assolutamente, quindi senz'altro c'è un problema di comunicazione, nel senso che noi scienziati dobbiamo continuare a migliorare il modo con cui ci rapportiamo alla società. Ci sono fatti molti progressi negli ultimi anni, diciamo, senz'altro siamo diventati più vicini al pubblico. Un esempio abbastanza brillante è la scoperta del bosone di Higgs, che è diventato un patrimonio dell'umanità e della società, come dovrebbe essere. Ed è chiaro che da parte nostra si possono fare ancora più sforzi per cercare di essere semplici, per cercare di far capire alla gente l'importanza della ricerca fondamentale, perché è vero che le applicazioni pratiche di ogni giorno sono molto importanti, attivano l'interesse di tutti, però è anche vero che senza idee e senza il progresso della conoscenza pura, il progresso a un certo punto stagna. Ad esempio, io faccio sempre l'esempio della meccanica quantistica della relatività, che fu uno, diciamo, scoperto dall'uomo a livello teorico agli inizi del secolo scorso, e non c'è forse nulla di più avulso dalla realtà che la meccanica quantistica e la relatività. Oppure, senza meccanica quantistica i transistor non esisterebbero, e se non correggessimo i nostri GPS sulle automobili, sugli aerei, per gli effetti relativistici, sarebbero completamente inutilizzabili perché ci porterebbero fuori rotta. Quindi questo per dimostrare che la conoscenza di base, anche quando sembra molto lontana dalla realtà, è in effetti importantissima per fare quei salti rivoluzionari che poi ci permettono di fare anche grande progresso nelle applicazioni pratiche. Fabiola, tu hai fatto in questi anni tanta attività di ricerca ad altissimo livello, sei una delle protagoniste appunto della scoperta del bosone di Higgs, ma anche tanta gestione di persone, di giovani ricercatori. Al di là delle aspettative, hai anche qualche timore per il nuovo ruolo che hai? Per esempio, sei un po' spaventata di dover dedicare un po' meno tempo forse alla ricerca, perché appunto dovrai essere il CT, l'allenatrice di una grande, grandissima squadra, quindi forse un po' di tempo dovrai dedicarlo a quello, o no? Innanzitutto, chiaramente essere direttore del CERN dopo 15 predecessori di grandissimo livello come Edoardo Amaldi, Carlo Rubbia, Luciano Mariani, solo per menzionare e nominare gli italiani, è un lavoro di grandissima responsabilità, di grande onore, un grande prestigio, ma anche una grande sfida, e non sarei onesta se dicessi che non sono un po', diciamo, nervosa di fronte a questo grande compito. Certamente dovrò anche abbandonare in gran parte la ricerca di base. Sì. Tuttavia il compito del direttore del CERN è quello di fornire la gestione scientifica del laboratorio, di seguire l'implementazione del programma scientifico e di aiutare a preparare il futuro scientifico del laboratorio. Quindi spero di poter continuare a fare ricerca anche se a livello diverso, non con le mie mani personalmente, ma più a livello di strategia e a livello appunto di dare un futuro alla fisica delle particelle, al CERN e in Europa. È vero che la mensa del CERN di Ginevra forse è la metafora più bella di quella che dovrebbe essere l'Europa unita? Assolutamente, si incontrano persone di tutto il mondo, in particolare giovani. Se noi guardiamo la distribuzione di età degli 11.000 scienziati che lavorano al CERN, il picco è a 26 anni, con una lunga coda poi verso le età più elevate, ma la maggior parte degli scienziati qui è veramente giovane. Si incontrano alla mensa del CERN premi Nobel che prendono il caffè o pranzano assieme agli studenti più giovani, persone di tutto il mondo riunite dallo stesso, di etnie differenti, di età differenti, di genere differenti, di tradizioni differenti, unite dalla stessa passione per la scienza. E molte delle idee in effetti nascono nelle chiacchierate, al caffè, alla mensa del CERN. È un luogo veramente storico, molto simbolico, molto emozionante. Grazie davvero a Fabiola Gianotti e buone feste, in bocca al lupo per le prossime sfide. Grazie. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. La National Geographic Society finanzia i vostri progetti. Avete tra i 18 e i 25 anni? E avete in mente un progetto di ricerca, viaggio, esplorazione nel mondo? La National Geographic Society potrebbe finanziare la vostra idea e darvi l'opportunità di ricevere i fondi necessari per realizzarla. Durante l'anno è infatti possibile proporsi per le Young Explorers Grants e presentare un progetto legato agli altri programmi di finanziamento della National Geographic, come il Comitato per la Ricerca e l'Esplorazione, il Consiglio per le Spedizioni e il Fondo di Conservazione. Per ulteriori informazioni consultate il sito ufficiale nationalgeographic.com nella sezione Explorers, Grants and Programs. L'altra Europa. Se, sembrano pernacchie. In verità è l'audio di un celebre video di YouTube che mostra come sei vecchi lettori floppy disk possano suonare il tema o qualcosa di simile al tema di guerre stellari coordinati da Arduino, questa scheda elettronica di piccole dimensioni che permette un fai da te digitale ad alto livello. Abbiamo parlato con Fabiola Gianotti di quella che è la ricerca pura, adesso invece andiamo a parlare di applicazioni, e l'Europa è anche lì e con un progetto molto bello, molto importante, molto innovativo, Digital Do It Yourself, il fai da te digitale, un progetto finanziato da Horizon 2020, lo strumento di finanziamento alla ricerca scientifica e all'innovazione della Commissione Europea, che vede protagonista il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, e con noi c'è Luca Mario, ordinario della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC. Ciao Luca, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, cos'è il fai da te digitale? Come facciamo a spiegare appunto in maniera concreta? Buona domanda. Partirei dall'idea che il fai da te è parte della natura e dello spirito umano. Tutti noi abbiamo un gran desiderio, o meglio dovrebbe essere che ci rimanga un gran desiderio, di essere persone che fanno, no? Che realizzano cose, ci realizziamo realizzando. Per millenni questo è avvenuto nel mondo degli atomi, sì. E basta, quindi realizzando cose con le nostre mani e modificando materia. Più recentemente, grazie ai calcolatori, sappiamo molto bene che il nostro mondo, anche psicologico, si è virtualizzato. Oggi i ragazzi vivono su Facebook, WhatsApp e così via. Però, come hai detto, grazie a questi dispositivi, che non sono in realtà così nuovi come le schede Arduino, certo, le stampanti 3D e così via, c'è una specie di convergenza che stiamo intuendo tra il mondo degli atomi e quello che potremmo sempre metaforicamente chiamare dei bit, no? Dell'informazione. Allora, la nostra idea, l'idea del gruppo di partner europei che si è aggregata intorno a questa intuizione di progetto, intorno al fai da te digitale, è che oggi siamo nella condizione di esplorare il fare da te, fare da sé, in una prospettiva però in cui l'informazione ha un ruolo importante. Quindi si fa da sé, si fa il bricolage, non più solamente col martello, ma anche appunto con schede elettroniche, con stampanti e così via. Quindi è un vecchio che diventa nuovo, certo, in un certo senso. E nasce così appunto DDY, questo progetto di cui tu sei coordinatore, e ci sono diverse università coinvolte, in cui l'Europa stanzia finanziamenti seri proprio per sviluppare questa una sorta anche di nuova educazione digitale, no? Perché in parte fare educazione digitale, in parte credo sia anche lanciare la possibilità di aprire start-up o professionalizzare questi talenti. Certo, è una sfida che vive di cultura, cioè noi più che occuparci di tecnologia nella prospettiva del creare nuovi strumenti, sì, saremo utenti, auspicabilmente consapevoli e creativi, ma di strumenti tecnologici esistenti che tratteremo come, si dice in gergo, abilitatori, no? Senza le stampanti 3D, senza le schede Arduino, che sono appunto i due esempi che stiamo continuando a citare, benché non siano gli unici, non si farebbe nulla di tutto ciò. Ma noi non cercheremo di sviluppare nuove o migliori stampanti, ma di chiederci come la disponibilità sociale di questi dispositivi può creare una nuova o una rinnovata cultura intorno al fare da sé, certo, individuale, di comunità. Oggi tipicamente le comunità sono abilitate e basate su web, no? Quindi c'è quest'altro effetto di amplificazione importante, e poi, perché no, come citavi, le scuole, comunità allargate, per esempio nella forma di smart community, smart cities e così via. La nostra ambizione più alta sarebbe di riuscire a essere così bravi, quando fra 2 anni e mezzo il progetto volgerà al termine, di essere stati in grado di identificare delle possibili linee guida per coloro che fanno le politiche per promuovere la cultura del fare da sé in Europa. Luca, concretamente cosa farete? È un progetto di ricerca, è un progetto di ricerca che nel framework Horizon 2020, come giustamente citato, si colloca in un'area di disciplina di tipo tecnologico, ICT, ICT, le tecnologie di informazione e comunicazione, ma con un focus specifico sulle scienze sociali. Quindi cercheremo di studiare in una prospettiva appunto scientifica, quindi multidisciplinare, con componenti metodologiche diverse, quindi con interviste, studi, workshop, scriveremo articoli e libri, promuoveremo conferenze e così via, cercheremo di studiare a vari livelli il fenomeno in quanto tale per identificare mentre si sta formando quali potrebbero essere le sue dimensioni importanti nella prospettiva del lavoro, nella prospettiva della formazione, nella prospettiva della ricerca. Trasversalmente ci saranno le dimensioni che tutti possiamo immaginarci, la creatività, come cambia il concetto di creatività, i problemi legali, per esempio legati al copyright. Certo, ah sì, perché insomma anche i problemi etici. Sì, nascono problemi nuovi, anche questo si porta dietro sì, il digitale. Esattamente. www.liuc.it è il sito dell'università. Luca, so che uno dei tuoi cavalli di battaglia è questo assioma di partenza, nel senso che tu dici che Horizon 2020 è un ottimo antidoto contro l'anti-europeismo. In che senso? Grazie della domanda. Horizon 2020 è appena partito, quindi nessuno ha in effetti la possibilità credibilmente di dichiarare che funzionerà bene. Questo progetto è stato proposto praticamente nella prima tornata di bandi e noi saremo quindi tra i primi, formalmente il primo gennaio prossimo, a cominciare il progetto. Quello che posso testimoniare, e per ora modestamente non è più che tale, cioè è una testimonianza, è che nonostante anche da Bruxelles ci abbiano dichiarato chiaramente che loro stessi stavano sperimentando, stavano imparando, eccetera, naturalmente con una storia lunga di altri framework precedenti, ma comunque H2020 è nuovo, nonostante tutto ciò il progetto è stato valutato e ora finalmente in partenza, rispettando direi al giorno i tempi che erano previsti, e questo in una situazione in cui invece ci immaginiamo abitualmente e sentiamo anche dire che Bruxelles è un luogo di burocrati che ci mangiano denaro e creano inefficienze. Ripeto, per la mia modestissima testimonianza io posso dire nel nostro caso è stato il contrario, ci avevano detto 5 mesi dopo la scadenza per la presentazione delle domande riceverete la risposta di come il progetto sarà stato valutato, e il giorno del 5° mese io ho ricevuto una mail. Poi ci hanno detto 3 mesi dopo che il progetto è stato approvato sarete nella condizione di poter partire, e noi 3 mesi dopo stiamo partendo. Insomma, ci avevano promesso che ci sarebbe stato uno snellimento a livello burocratico, le tue parole sono abbastanza incoraggianti. Perché confermo che per quello che abbiamo visto finora, posso dire un piccolo dettaglio ancora, ma forse considerando che siamo in Italia non è secondario, l'intero processo, e stiamo parlando di un processo di valutazione e approvazione di un progetto che vale qualche milione di euro, l'intero processo è stato fatto completamente online senza un pezzo di carta. Insomma, anche questo è un valore sicuramente aggiunto. Un grazie a Luca Mario, ordinario della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC Università Cattaneo. Grazie Luca e buon lavoro adesso, perché adesso si parte e viene il bello, esatto. Ciao. Buone feste, ciao ciao. Anche a voi. Europost-it. Tirocini presso l'Agenzia Ferroviaria Europea. L'Agenzia Ferroviaria Europea offre opportunità di tirocinio per giovani che desiderano approfondire la loro conoscenza nel campo dei trasporti su strada ferrata. Gli stage intendono offrire una comprensione generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione Europea e sono rivolti a giovani laureati dei 28 Stati membri dell'Unione. I tirocini vengono organizzati 2 volte l'anno per un periodo che va dai 3 ai 5 mesi con inizio in marzo e ottobre. Per tutte le informazioni collegatevi al sito era.europa.eu. Questi sono i nostri Europost-it, li potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito il sito di Radio 24. E l'appuntamento, come vi ho detto, è a sabato prossimo, ma non solo. Venerdì 26 saremo in onda con uno speciale, l'Altra Europa natalizia alle 9 in punto, quindi vi aspettiamo. Un grazie a tutta la squadra, Valeria Bernardi, a Giorgio De Luca, oggi in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Vi aspetto in Facebook, vi aspetto in Twitter, oppure potete contattare direttamente la nostra redazione, la mail la conoscete, l'altraeuropa@radio24.it. Per ora buon Natale, ci risentiamo qua in onda venerdì prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.